Zolt. Fulminati in azienda. Grazie, grazie a tutti, grazie ai colleghi, agli amici giornalisti, agli architetti e ai designer per essere venuti qui oggi all'inaugurazione di Zolt Experience. E ecco, è iniziata la conferenza Zolt stampa. Experience. Ma voi dai preciso che avete combinato, Gavon? Da un mese che non te vedo. Dottor, sono stanco morto. La fonte per stelia del bed and breakfast la mega ha fatto lavorare come un mosso. Altri scenari. In particolare Experience è un B&B, ma non è un B&B, cioè è una boutique, ma non è una boutique. Ma che è allora questa Experience? Experience è un luogo dell'anima. Che è un... È l'oasi glamour del riposo e del wellness, un luogo non luogo dove l'esperienza viene prima di qualsiasi altra cosa. De che? È fashion, è casa, è vita. Experience è tutto. Ah, mo ho capito, beh... I tessuti delle nostre rooms sono rifiniti a mano da maestri tessitori. Il maestro tessitor seria mia. Ecco cosa ha fatto per un mese invece di lavorare. Infine tutti i nostri accesso alla nostra esclusiva boutique dove potranno acquistare i capi della linea di abbigliamento Zolt Experience. Abiti adatti a tutte le occasioni con un'esclusiva linea di biancheria intima color prugna targata Zolt. Ah Pacco, ma che te sei messo pure a cucire logo sulle mutande? Sì, pronto? Pronto, Marta, sono Marco. Marco, come va? Che piacere sentirti. Come va la tua vacanza? Ma quale vacanza, Marta? Quale vacanza? Sono qui a curare i clienti islandesi sotto la cenere del vulcano. Dai, piuttosto dimmi come va lei con questo bed and breakfast, lì, la nostra Zolt Experience. Oh, Marco, un successone. Fioccano le visite sul sito. Sono davvero entusiasta. Mancherebbe altro, Marta, con quello che mi è costato. Cerchiamo di far pedalare l'attività. E la boutique? Ah, la boutique, guarda, devo dirti, i boxer col logo di Zolt sono i più venduti in assoluto. Marco, non c'è manager che non ne vorrebbe indossare un paio. Abbiamo fatto trend. Molto bene, brava Marta, mi fido ciecamente di te. Ciao e a presto. Allora Pacco, sul pezzo mi ha detto che dovevamo controllare la font, non si fida. Quindi stanotte io e te dormimo al bed and break, come si chiama? All'experience là. Ma dormimo insieme? E certo, perché c'è qualche problema? No, no, no, ma lei la russa? È russo, diciamo che sono attivo e non passo inosservato. Dottor, la se svei. Dottor! Pacco, ma sei tu, ma che vuoi, Pacco? Go trova come la mega chiesto i registri contabili del bed and breakfast. E cosa ha scoperto? Che siamo sotto dei 300.000 euro. Ma come 300? Ma se siamo aperti solo da una settimana, come avevo fatto? Ho speso troppi soldi per l'arredamento, le stanze e le femmo pagare troppo poco. Ma è un disastro. E vendite delle mutande? Neanche una mutanda venduta alla boutique, sei un fallimento. È tutto un fallimento, Pacco, tutto. Appena torna sul pezzo, sto posto lo chiude. E tutta la roba da vestir che avevamo già comprato e che mi ho ricamato a man? Ecco, questi sono problemi da font, ma conoscendola vedrai che casca in piedi e che ci ritroviamo a mutanda come regalo alla convention di Natale. Zolt è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zolt.tv 3Z2O 1T.